Ben ritrovati, seconda ora di 451 2020 e 0. Beh, sì, è un'addizione un po' strana, ma poi in realtà non è esattamente un'addizione. Se vogliamo, è una riflessione forse più che altro legata, come dicevo nella prima ora, a una sorta di campionario sonoro degli anni 0. Questo per fare un discorso che possa portarci ai nostri anni 20, che suona piuttosto, insomma, strano, no? Visto che magari non molti si sono accorti che sono passati ben 20 anni, appunto, da quella data che sembrava incredibilmente avveniristica, che era appunto il 2000. Poi qualcuno c'è pure nato, quindi di conseguenza non lo era, anzi era tutt'altra faccenda, e anche a ritroso è ovvio che perde quella allure e quel carattere anche fortemente ideologico, se vogliamo, seppur un'ideologia, insomma, legata al grande salto tecnologico, tecnico-tecnologico, e ha un futuro che vedeva le macchine volanti, non ci sono, e come, insomma, una società che per tanti versi aveva anche il segno dell'utopia, magari dell'emancipazione dal lavoro. Oh, che ho detto, scusate, quello che è poi tutto buona parte, insomma, del Novecento, in termini di avanguardia, di neoavanguardia, di idea, appunto, fortemente utopica, anche violentemente utopica, perché no, se prendiamo, insomma, ad esempio alcune avanguardie sono decisamente conflittuali, e come d'altronde poi molta parte, insomma, di quelle che potremmo considerare avanguardie politiche, poi avanguardie magari che si sono fatte massa per alcuni periodi, e con tutto anche la contraddizione che può avere un termine del genere, quasi un ossimoro, potremmo dire, ma tant'è che, appunto, se andava avanti per molti versi, provocando, cercando, appunto, nel lancio utopico, poi questa idea, appunto, di futuro, di futuribile, e di esperito, di esperibile lì sul momento. Beh, dal 2000 evidentemente, e soprattutto, insomma, dal 2001, questa idea fatalmente se ne va, sparisce. C'è una retromania spaventosa, una nostalgia o ostalgie, perché per chi magari viene dall'est Europa, c'è una sorta, appunto, di recupero che non è particolarmente gioioso, se pensiamo, insomma, all'Electroclash e a certe forme, insomma, di ripresa degli anni Ottanta, che saranno veramente invasivi, a dir poco, nel decennio, appunto, degli anni Zero. Ma anche certe forme, certe attitudini, perché no, che provengono magari da momenti radicali di rottura, magari anche proprio dai famigerati anni 80, con attitudini, ad esempio, noise, attitudini che avevano un fil rouge diretto, appunto, con un'idea utopica, sì, che per molti versi, se pensiamo, appunto, a certe faccende legate all'industrial, era anche diventata distopica, ma era sempre una distopia che comunque non era depressiva, ecco, fondamentalmente la faccenda che invece attraversa i nostri giorni, e che fa, ad esempio, di un disco come Geogaddi, un gioiello degli anni zero, che darà poi veramente adito e suono anche quel ipnagogico, quindi quelle psichedelie così velate, di sorta di malinconie, di futuri perduti o di tentativi così di perdere e così perdendo il punto di vista, un punto di vista chiaro, magari trovare appunto un altrove che tante volte diventa anche una sorta di isola assolutamente inventata e fuori appunto da anche legami da reale, se poi in realtà anche tra l'ideologia, insomma, del se vogliamo un po' anche qua molto molto legata appunto a un realismo politico capitalistico, c'è questa grande, insomma, questa malinconia depressiva, potremmo dire, senza appunto quel lato poetico e quel lato romantico che si vorrebbe anche associare appunto a quel suono malinconico. Borzo Canada, che abbiamo sentito appunto per un po' con il loro Geogaddi, davano appunto sia in termini di possibilità sonora, appunto il suono ipnagogico, ma anche molte delle elettroniche si sono basate, insomma, su questi suoni creati appunto da Borzo Canada, e più in generale è proprio un modo di sentire, potremmo dire, questo allontanamento sempre, che però non è un allontanamento di fuga, non è forse più possibile, che in questo senso ci viene anche a dire Geogaddi, la fuga, quindi appunto una sorta veramente quasi di cancellazione, quasi di accecamento, potremmo dire, che però dà appunto poi sfogo per molti versi a disegni anche fantastici, se vogliamo, con quel fantastico appunto che però si tinge decisamente di nero, un po' come quello che succede con Focus Group e con Broadcast, anche loro vengono dagli anni 90 come Borzo Canada, e con quel suono che potremmo dire quel retrofuturismo che attraversava anche formazioni, e tante volte sono stati associati a Stereolab, ma in realtà stavano con, tra l'altro, materiale anche uscito anche in maniera molto centellinata, stavano creando anche loro quel disegno ontologico, questo quasi andare su un futuro perduto, e forse per questo con la possibilità appunto anche della reinvenzione, in questo caso insieme a Focus Group, gruppo fondamentale della Ghost Box. Quindi anche qua il fantasma, cosa succede? Viene appunto negli anni zero la spettralità, l'ontologico, prendere mosse poi da riflessioni di spettri di Marx, di Derrida, appunto tutta la musica, e non solo quella, il linguaggio sembra attraversato appunto dagli spettri, l'esistenza veramente anche di cose che si vorrebbero, insomma, ancorate al Novecento, o che si vogliono ancorare appunto a quel secolo. Sopravvivono, anzi vivono, e hanno anche una sorta di iperrealtà, se vogliamo, appunto fantasmatica, proprio come quella che riescono a creare Focus Group insieme agli storici appunto Broadcast. Thank you.

quel visivo compiuto anche cinematograficamente con un film anche piuttosto interessante che Berberian Sound Studio, e proprio quel percorso di recupero, se vogliamo, di tutto quello che poi è stato inteso come library, che poi esploderà, insomma, appunto alla fine degli anni zero, per portarci, insomma, fino ai nostri giorni. Saranno poi in effetti gli anni 10, lo scorso decennio, che porteranno, insomma, grande interesse verso la library, quindi le sonorizzazioni, e anche, appunto, questo è il lavoro d'archivio. L'archivio diventa però materia retrofuturistica per, prima citavamo Stereolab e per Broadcast, che molte volte sono stati appunto associati, ma in più rispetto agli Stereolab, o diversamente, perché, insomma, poi la faccenda di Stereolab è importante anche per altre cose, come appunto quella di Broadcast, invece per sia una, appunto, library retro futuristica, e per un suono che si fa veramente sempre più spettrale e va compiendosi anche in termini proprio visivi, con appunto questo quel Berian Sound Studio, disco del 2013, finale del progetto Broadcast, anche perché, insomma, purtroppo hanno avuto appunto una dipartita importante, quindi di fatto, insomma, non esistono più Broadcast, mentre invece, appunto, Mordant Music, in un certo qual modo, in maniera fantasmatica, ma forse buona parte, insomma, perlomeno dei primi qua che stiamo inserendo in questa seconda ora, hanno un aspetto fortemente fantasmatico. Obituaries era appunto il luogo dove si recavano i Mordant Music, progetto che va tanto a impattare su certe, certe forme ipnagogiche, come poi forme anche astratte, che vanno in maniera molto fluida anche. Dead Air, dove abbiamo appunto ascoltato questo splendido pezzo, questo splendido brano, anche attraversamenti che potremmo definire grime, quindi con tanto di riferimento a quelle che sono state le evoluzioni del two-step, che hanno portato verso il grime, anche qualcosa che gli avvicina, potrebbe avvicinare anche a disegni apocalittici, industrial, però sempre, appunto, come dire, velati da forme che ci riportano immediatamente appunto a quel disegno che comunque va sfumandosi, che appunto è il disegno del suono ipnagogico, anche appunto Mordant Music, e soprattutto con questo The Dare fecero del loro percorso e del loro linguaggio, appunto, molto variegato, un punto di riferimento, per quanto, insomma, punti di riferimento poi dentro una perdita, dentro il volersi, appunto, perdere, dentro una sorta, o fuori anche per molti versi, di sbavatura, di, appunto, vista sfocata. Senza dubbio, certi ascolti accorti sono andati chiaramente, perlomeno, ascoltare The Dare di Mordant Music. E negli anni zero c'è anche, appunto, questo non soltanto lavoro d'archivio, ma proprio un recupero vero e proprio anche di attitudine freak, radicalizzandola anche, andando proprio alla radice della cultura, anzi della controcultura freak, e si sono sviluppate tante formazioni. Tra l'altro, do anche un input rispetto a queste due ore, appunto, degli anni zero, andando a cercare, poi metterò, insomma, il link delle trasmissioni del blog. Nel 2010, come 451 frammenti sonori, lavorammo proprio su quello che in quel momento, quindi può essere anche un lavoro, insomma, che per quanto insomma mi riguarda, ci riguarda, è forse insomma piuttosto difficoltoso, però con probabilmente orecchio esterno si può fare anche appunto i dovuti distinguo, no? Rispetto a quello che invece 10 anni fa non invece vedevamo come appunto fondamentale rispetto appunto al decennio degli anni zero. Non è un invece, perché in realtà quello che Max Macchia sta facendo in queste due ore e implementare quel tipo di suono, trovando anche appunto poi delle letture che ovviamente sono state chiarite nel corso del tempo, il discorso appunto ipnagogico, il discorso del noise che stava diventando un qualcos'altro e che stava attraversando addirittura poi dei momenti che potremmo dire musicalmente assolutamente distantissimi dal recupero folk freak. Per quanto riguarda In Go A Ring, e poi sentiremo in successione invece Richard Young con un passato anche piuttosto noise, potremmo dire ultra noise, progetti tipo Ceausescu, dove veramente sta affilate di ultra noise, e poi diventerà una sorta di cantore freak, ma con quel senso del freak che è avanguardista, quindi ma anche trattando la drone music, il canto che ritorna anche in Go A Ring. C'è una sorta di canto, se non proprio diretto, comunque sempre indiretto, diventa una sorta di canzone, però intesa appunto come una maniera probabilmente più trovatorica, potremmo dire trovatorica, del termine, quello originale, insomma, quella veramente tuffarsi in un impossibile poi impossibile sogno naturistico che non può essere più tale, e quindi diventa appunto radicale in questo andare a ritroso, quasi appunto a una sorta di azzeramento del tempo, e poi appunto anche far uscire in maniera molto molto forte, cosa che faranno buona parte insomma di chi si è approcciato al folk negli anni zero. Folk poi più o meno acido, più o meno drone, più o meno metal, più o meno noise, ce n'è veramente di tutto e di più. E appunto vi rimando anche alle trasmissioni di che linkerò appunto sul blog 451 frammentisonori.noblogs, anche per andare appunto così a fare una sorta di comparazione, ecco, rispetto a 10 anni passati. Go A Ring che ascoltiamo da Hazel Step, Throw a Weatherhead Home, tra l'altro disco anche ripreso, rivisitato proprio qualche mese fa, magari avremo modo anche più avanti in questo 2020 appunto di ascoltare anche la rivisitazione di questo lavoro che veramente vive di materia sognante, quanto di capacità di andare veramente a una radice che appunto li rende radicali e li rende anche, se vogliamo, molto molto sperimentali nel appunto andare non soltanto in maniera filologica a quel suono, ma quasi appunto a crearlo probabilmente con un'idea anche molto, molto forte di origine, di originalità, che appunto proviene da questa loro attitudine che tuttora appunto continua. Quindi Go on Ring e poi Richard Young, come dicevo. Search. Looking at my thinking, Beh, sempre in temi di obitori, anche se qua la cosa è molto più teatrale, se con Mordant Music, Broadcast Focus Group, anche per certi versi, seppur con un linguaggio molto più distante da anche Borzo Canada, hanno questa sorta appunto di spettralità che però appunto con loro che dovreste conoscere, insomma, sanno più che di spettralità si parla appunto di teatralizzazione di quello che è un suono che è diventato paradossale e decisamente anche incredibile nel vero senso della parola, perlomeno così sembrava negli anni zero, con tutto insomma che poi Sanò per tanti versi si sono anche ripetuti, ma tant'è che appunto spingendo su quello che era la materia che sembrava molto distante dalla sperimentazione soprattutto legata alla drone music, ovvero il metal, poi invece è il black, si arrivasse appunto a queste sorte di volute anche strade chiuse, un suono che volutamente si fa ottundente, un tra l'altro suono che potrete anche vedere, stiamo parlando insomma dei campionari dei suoni degli anni zero. Beh, nel 2020, tra pochi giorni, ci sarà appunto un concerto in quella di Bologna, anche con già un sold out, già dato, insomma, potremmo dire, già fattuale, qualche uno potrebbe anche lanciarsi con questi termini. E, non è un caso, ma non è neanche tanto la storicità poi di Sanò, che appunto storicità che adesso vanno. Si sono perse, anche se poi per certi versi questo 2020 ci porta anche a ragionare un po' di più su quello che appunto come minimo in termini burocratici, amministrativi, insomma, bisogna già intenderlo come insomma, 21esimo secolo decisamente iniziato, appunto siamo negli anni 20, quindi questo quantomeno insomma può dare quell'ansia che forse in questo caso può essere anche buona, proprio per ragionare su dei suoni, su un decennio addirittura degli anni zero che fu definito un decennio che andò a vuoto. Samuel Reynolds arrivò a dire appunto questo in Retromania, seppur poi amando molte formazioni, tra cui appunto Focus Group e buona parte insomma del suono ontologico e ipnagogico, e con appunto Sanò si porta appunto quegli estremi che già erano in nuce dentro certo black metal, si va verso una forma appunto paradossale di suono metal che diventa materia sperimentale con progetti insomma come KTL, se pensiamo a Mao Malley, che appunto si dà anche a collaborazioni con artisti vicini a Glitch, a Noise, appunto a Pita per quanto riguarda KTL, ma potremmo pensare a Eternor addirittura con inflessioni paragezzistiche, o comunque veramente con tantissime collaborazioni che ho fatto male in questi ultimi 20 anni, e collaborazioni che tra l'altro non sono andate verso un suono che forse poteva essere anche tra le corde, se non fosse appunto che gli obitori e anche le fricherie, se gli obitori interessano in termini teatrali a Sanò, in termini invece di immaginario freak, appunto dire zombificazione freak e quindi risuscitamenti così anche improbabili, impossibili, fatti da noiser americani, già abbondantemente passati da queste parti. Beh, sicuramente una delle formazioni insieme a Wolf Eyes, tra l'altro iniziarono proprio insieme, Black Dice, che appunto ha dato quella forma anche, se vogliamo, soprattutto nei primi lavori, poi diventando anche così, sì, ma abbastanza innocui nel loro essere freak, più vicini magari a Animal Collective più che appunto a deragliatori sonori come appunto Wolf Eyes. Ma nei primi lavori c'è anche un dato tecnoide, freak tecnoide noise che veramente li fa diventare tra le cose più interessanti appunto di quegli anni zero, perlomeno dei primi anni zero. Ci andiamo a prendere tra l'altro con un connubio anche piuttosto particolare, visto che si va a trattare di quello che è stato un fenomeno appunto molto legato a quella retromania, ovvero retromania anni 80, DFA, LCD Sound System in primis, che appunto si davano a quel suono. DFA era legata a LCD Sound System, ma appunto anche avuto quella capacità la DFA nei primi anni zero, come quella di Black Dice, di sparigliare le carte, di farlo anche in maniera piuttosto sorprendente, che perlomeno insomma per quanto riguarda il sottoscritto e non solo, suscitò piuttosto curiosità, oltre che ascolti anche piuttosto frequenti come questo con Toaster, appunto friccherie che vanno a impattare tanto noise come veramente anche una techno seriamente assurdista. Thank you. E io vi lascio appunto su queste note infuocate da Taro Spot, Fuck Button, e poi appunto avremo modo di parlare anche di questa faccendina di appunto il rock che va a impattare col noise, con l'IDM, eccetera, eccetera. Alla prossima!